Ragazzi, bentornati alla Cena dei Regini, anche questa settimana assieme. Rilassatevi, www.tbacco.it per guardare questa e le puntate precedenti. Cena che c'è tbacco.it per contattarci, ma adesso rilassati, stacca il mouse, buttalo dalla finestra, sei sulla cena. Adesso una piccola pausa per la sigla e torniamo assieme. Scappate! All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla Cena del Regino. Ragazzi, da Cena dei Regini, bentornati assieme a noi alla nostra tavola. Sedetevi, accomodatevi, adesso parliamo di quello che è successo in questa settimana all'House. Tantissime cose perché continuano i lavori di ristrutturazione dell'house, siamo quasi addirittura d'arrivo. Presto ci sarà la possibilità per tutti di visitare l'house, di venirci a trovare, di scoprire quanto è cambiata questa struttura, totalmente nuova, totalmente rivisitata, del tutto moderno, anche se con uno stile anticato. Ricominceranno le serate all'house, intanto sono già ricominciate le serate in giro a mettere un po' di musica e a fare un po' di grande divertimento con voi. Sono stato un po' a spasso a fare qualche seratina, a mettere musica, abbiamo fatto un po' di karaoke, un po' di festeggiamenti, giustamente, ed è stato bello così. Ma soprattutto anche voi potete partecipare alle nostre feste e alle nostre cene, scrivendo a cena@back.it e spiegandomi perché dovete essere invitati a questa tavola, la vostra storia di vita, le vostre passioni, i vostri progetti da raccontare qua, tutti assieme. E soprattutto un bel piatto di pasta. Assieme a un piatto di pasta che però porterete anche voi perché ognuno porta qualcosa da mangiare. Speriamo. Ah, è vero che prima che ci resta male, ma sicuramente la grande ospite attesa anche questa sera era la Pantera di Ortì. Questa storia che ha avuto un grande risalto mediatico sulla nostra pagina Facebook. Si narra la leggenda, la storia da qualche mese di questo grande felino nero che abita le campagne di Ortì, un paesino vicino a Reggio Calabria, è incredibilmente arrivata in anteprima mondiale la foto della Pantera di Ortì e l'ha mandata una ragazza, un'ascoltatrice della cena, l'ha regalata alla cena per farne materiale, diciamo, per le nostre notizie. La Pantera ovviamente non ha fatto alcun danno, non c'è nessuna storia brutta dietro, anzi resterà questo tra mito e realtà, questa mezza leggenda metropolitana. Però adesso c'è questa foto, i carabinieri indagano, stanno cercando di capire esattamente i contorni della vicenda, ma noi intanto abbiamo iniziato a mettere online una foto a dimostrazione che se vuoi stare sulla notizia è questa la trasmissione che devi guardare, è questa la trasmissione regina per eccellenza, ragazzi, la Cena dei Regini. Noi aspettiamo notizie dalla Pantera, e non della Pantera, ma dalla Pantera, perché io l'ho invitata la Pantera, come ho anticipato, io gli ho offerto mezzo pollo e un tiragraffi, quindi se viene, direi che è una proposta allettante, voglio dire. Mi ha ricordato la notizia di qualche tempo fa, qualche anno fa, diceva che in paesino sopra Melito c'era un pitone nei giardini. Ma io ricordo l'estate io ricordo l'estate scorsa la grande leggenda del mostro di Seminara. Vabbè. Che se addirittura si era sparsa questa cosa, che la notte una creatura che non si sapeva bene cosa fosse, esattamente una specie di chupacabra, girasse per le strade e seminasse il terrore. Poi ovviamente anche là non è successo nulla, però è stata bella. È bello anche avvicinarsi alle grandi città, ad esempio New York, che aveva la leggenda famosissima dei coccodrilli nelle fogne. Noi abbiamo la Pantera perché ancora le fogne sono da sistemare, quindi dobbiamo adattarci, cioè abbiamo la vegetazione, la sfruttiamo così. Ragazzi, e voi davanti alla Pantera cosa fareste, cosa le vorreste dire, quando sarà qua, che domande dobbiamo fargli? Scrivetelo a cena@back.it adesso e ci vediamo dopo un piccolo spazio musicale. La Pantera. Ragazzi, bentornati, questa è la cena dei regini, cena@back.it per comunicare con la trasmissione. Adesso, orecchie dritte, mi raccomando, state attenti perché è il momento delle notizie. Ce n'è una in particolare che apriamo con molta attenzione e con molta anche insofferenza. Lui sta già tentando il suicidio, ma ancora no, bisogna prepararsi per l'era dei super topi. Si avvicina sempre di più in Gran Bretagna, già gli scienziati si preoccupano perché sono diventati resistentissimi al veleno, hanno aumentato la loro grandezza di notevoli dimensioni, mettendo già in difficoltà gli addetti ai lavori della Gran Bretagna. In più si prospetta che in futuro arriveranno anche a pesare, ad arrivare a stazze da 80 kg, quindi una cosa, un bel topone. 80 kg? 80 kg, il topo 80 kg, mio crescendo. Fratello, pensa. Che cazzo, pensaci. In più, unito a quello che diciamo l'altra volta, cioè la medicina che permette di ringiovanirli e il fatto che esistono i topi cannibali, insomma, sono tutte notizie che si prospettano interessanti. 80 kg di inquilino... Vabbè. Rosicchiante formaggio. Cioè, spero che almeno noi ci evolviamo almeno a 670 kg. Tu dici per altri 3 metri e mezzo, tipo muscoloso, tipo Schwarzenegger. Quando ero piccolo, io ero così. Compresi di coda. E invece quando sarai adulto potrai cavalcarli. Perché questa è l'evoluzione. Darwin ci ha lasciato questa idea, ma non è sempre l'evoluzione ad avere la meglio, basta un minimo, c'è l'insegna Georgina Burke. Lei che da avvenente signorina, comunque dalle curve diciamo un pochettino rotondette, è riuscita a conquistare per prima la copertina di una rivista quotata. La rivista si chiama Torrid, un nome che a me personalmente non dice nulla, però comunque mi fido di questa, okay, di questa notizia. Lei è particolare perché è il primo volto che è una rivista australiana, cioè lei è australiana, e lei è il primo volto che darà, che apparirà come modella formosa su questa rivista. Quindi i tempi che cambiano, ingrassano i topi, ingrassano le modelle, cioè un futuro prospero. Hai capito un futuro prosperoso. Direi con calma. Però non è che perché hai baffi umidi, puoi dire quello che vuoi. Sì. Ma ragazzi, se tutto va male dobbiamo eseguire Andrea. Si potrà stampare il corpo umano in 3D? E questa è la grande previsione, la grande notizia, arrivare addirittura alla tecnica del cosiddetto bioprint, cioè la possibilità di stampare anche i tessuti umani tramite questa rivoluzione, diciamo, industriale, perché comunque si potrà fare organi interi con un processo che sarà ovviamente accelerato rispetto ai tessuti che si ai materiali che si creano attualmente, e quindi potrebbe essere interessante. Cioè stampare un corpo da zero, funzionante, cioè vivente. Tessuti in senso organi e tutto il resto, sì. Chiaramente bisogna vedere come funziona a livello cerebrale, io ho qualche dubbio. Ma lasciando perdere il cervello, però immagino se si può stappare un fegato, cioè io sinceramente... Ci fa un pensierino. Ci faccio un pensierino. Possiamo iniziare a darci all'alcol, di veramente, poi... 10 euro di fegato ogni tanto, che sarà? Te lo cambia da solo. Che stanno sintetizzando, dice, al posto della plastica oppure i vari materiali si utilizzerà il cosiddetto idrogel, cioè questa matrice sintetica che comunque funziona da struttura base per poter replicare i tessuti umani, pensa tu. Cioè, veramente sarà un grande vantaggio per i trapianti, nel momento in cui una persona avrà bisogno di un trapianto perché ha un problema, qualche organo, comunque sarà molto più facile perché probabilmente si costruirà l'organo compatibile al 100% con il suo corpo. Certo, no, adesso tu questo utilizzo è fantastico. Poi adesso, per dirne una un po' più leggera, quando tu vai a visitare i vari siti ci sono le pubblicità, sai, il trapianto di capelli, il trapianto qui, il trapianto lì, clicca adesso, eccetera, saranno cose vere e tu potrai stamparti un viso affascinantissimo quindi potrai farti questo trapianto e tutti andranno, le relazioni andranno molto meglio. Invece di farsi la tinta ai capelli, uno dice, mi sono fatto asiatico. mi stampo i capelli. Il brutto è se finisce l'inchiostro. Resti un po'. Sei zigomo. Tra Pechino e Canicattì, resti un soggetto così indescrivibile. Ma ragazzi, per tutti c'è spazio nel mondo dei grandi sentimenti, ce lo dimostra anche Facebook, e in particolare un'applicazione nuova di Zecca che addirittura riesce a capire tramite il tuo profilo Facebook qual è l'età giusta per sposarti. Cioè questa app che fa? Si collega al tuo sito Facebook, va a vedere i tuoi amici vari, la loro vita sentimentale, e cerca di capire quando anche tu potresti cascare nel grande amore. Ma non c'erano già i genitori che ti dicono: io alla tua età avevo tre figli e ho fatto il tuo amico che si è già sposato 2 anni fa. Bravo, ma lui lo fa su Facebook, quindi 1000 persone, questa app dice: guarda Gino che si è sposato, e guarda Pino che uscesce con quella sculettina il sabato sera, e tu amico mio Nisba, e quindi datti da fare. Ti dovresti sposare all'età di 25 anni. Ne ho 37. Questo piccolo problema. forse c'è qualcosa che non va. Triste di sposare quando non pervenuto, perché non ormai pervenuto. Anche l'app dice lascia perdere, lascia stare. Se ne sentiva là il bisogno di questa applicazione. Sì, sì. Meno male che l'hanno fatto. E ragazzi, che dire ancora dell'incredibile annuncio di Pizza Hut, questa catena di pizzerie americane che ha annunciato online, oggi dopo 56 anni da single, Pizza Hut è pronta per una relazione, dà la possibilità a chiunque non ha ancora trovato l'anima gemella di fidanzarsi con una pizza. E in particolare grazie a questa partecipazione, con questa collaborazione con una catena di giapponese, no, americana, di siti per incontri, e quindi dà la possibilità a dei clienti di partecipare a questa promozione di, diciamo, scambio di contatti, suppongo, per incontrarsi all'interno di pizza, delle pizzerie. Quindi vai a ordinare una margherita e ti ritrovi fidanzato con una tizia. È bellissimo. Ah, ho capito, ti fidanzi con la pizza. Non è, e Andrea ci stava preparando il biglietto per andare in America. Una, no, per questo avevo pensato ai giapponesi. Le quattro stagioni. Per questo avevo detto, ah, giapponesi, perché si fidanzano con qualunque cosa, dovranno iniziare anche con le pizze. Certo, no. Mi raccomando, stai attento alle capricciose, non ti fanno dormire la notte. Un pari. No, ragazzi, poi si avrebbe fatto una pizza con due braccia di pane che la puoi abbracciare stampata, ripiena di pane, ripiena di bacon. Ovviamente, ma ragazzi, a proposito di cose angoscianti, continua il successo di questo incredibile gioco online, Neck Nomination. Questa settimana in particolare si segnala il video di un ragazzo che si è sparato un bel cocktail di topi, larve e insetti e l'ha bevuto per far parte di questo gioco pericolosissimo, che praticamente consiste in fare un qualcosa di potenzialmente pericoloso per la propria vita e mettere il video online. Lui ha fatto questa cosa, fiero anche dell'approvazione degli amici, per la dimostrazione che è tutto reale. Addirittura alla fine del video ha anche sputato le ossa del topo per fare vedere che effettivamente ha fatto questa cosa. Come dire, il successo trash di internet, queste cose. Dobbiamo fare qualcosa anche noi, ragazzi. Bisogna partecipare. Sì, sì, fa. Come fai? Io devo presentare il programma, quindi uno di voi si deve sottoporre, non lo so, tritiamo uno e diamo da bere l'altro, un cocktail. Così. Vabbè, ci penseremo. Ma intanto, bollino rosso, perché è l'angolo della notizia un po' sensuale, un po' particolare, ma comunque questa qua è più ironica che altro. Una studentessa americana fa una piccola figuraccia in diretta televisiva, perché stava dimostrando la funzionalità di una applicazione che permette, secondo lei, di ripulirsi la fedina penale. E invece durante la dimostrazione di questa app sul suo cellulare è uscita una bella lista di siti hard, quindi come a dimostrare, guarda, mi ripulisco la fedina penale, invece poi esce questa bella. Ma lei aveva fatto questo per sporcarsi la fedina penale, perché sennò come se la ripuliva poi? È giusto. Anche questo è vero. Controprova. Primo sito nella lista era 4chan. Che dovrebbe essere veramente vietato, però comunque no. E quindi lei ha fatto questa figuraccia, e come dico io sempre, perché lei fa vedere la lista, però ci sono anche quelli che riescono a collegare il nome del sito, certo, col sito, e quindi nessuno è. Ah, ma quindi se è bella sua, quello è un sito proprio porno. Oppure quello è. Magari c'è quello che ha detto, ma quello là è vecchio, non c'è più niente, non l'aggiornano più, dai, cose vecchie. Ma quello ha soltanto 47 categorie. Cos'è? 47 categorie. Un minimo che comunque non esiste. Tra l'altro, cosa curiosa, l'app stessa si è dimostrata alla fine una mezza fregatura, perché non faceva altro che metterti in contatto con dei professionisti che ti avrebbero tirato fuori dai guai. Quindi, come dire, hai questa peripulsia cerebrale che in verità non fa altro che contattare l'avvocato Cozzolino per dire che deve venire a tirarti fuori dalla galera e sistemarti le cosucce in cerebro. Guarda tu, non avrei mai fatto questo atto. Ragazzi, grande richiesta dalle parti di Arcore. Ma adesso continuiamo con un piccolo spazio musicale. Move your ass and get yourself in gear. Move your ass and get yourself down here. Oh, come on. You won't believe what's going on. We'll be out till the break of dawn. Oh, come on. Don't waste your time with useless subcultures. Oh no, no, no. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. Upper class boys are boring, but upper class boys won't take part. I can't now. Don't waste your time with useless subcultures. Oh no, no, no. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. E ragazzi, era la cena delle regine, anche questa settimana ci è andata alla grande, ci aspetta una grande settimana assieme. Seguiteci www.utibac.it presso la nuova inaugurazione della nuova house, perché dobbiamo ricominciare ancora meglio di prima, totalmente rinnovata, rifatta e pronta a ripartire. E ragazzi, questa è la cena delle regine anche questa settimana. E invece no. Entusiasmi. Bravo. E ci vediamo settimana prossima. Ciao. Va bene, abbiamo finito la puntata, possiamo ucciderlo adesso.